Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì, in onda qui dai studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla iniziale di questa trasmissione. Questo era il brano sigla di inizio trasmissione per questo Zardins Magnetics di oggi 25 luglio 2024. Ovviamente come tutti i giovedì siamo qui fino alle ore 21.30. Ricordo che il programma viene mandato avanti, viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora ovviamente trasmettiamo qui da Radio Onde Furlane, da Udine, ma ora andiamo invece all'ascolto di questa band de Roma. Loro sono i Drumspell, band che ha esordito con questo album nel 2020, anche se l'anno precedente, il 2019, ha fatto uscire una demo tape con 5 brani. Comunque questo è il loro unico album uscito, che si chiama Barbarie Futura. Loro sono direttamente da Roma, i Drumspell. buonasera e benvenuti a tutti, benvenute a tutte voi che siete in ascolto. È già stato detto di Zardins Magnetics di questo giovedì 25 luglio. E niente, vado solo a presentare quelli che saranno un po' gli interventi questa sera per Zardins Magnetics. Andremo a fare un percorso su alcuni articoli in merito al tema dell'autogestione e principalmente, e poi annessi e connessi, e in seguito faremo anche proseguirà questo percorso in una serie di aggiornamenti e di considerazioni sulle rivolte carcerarie in Italia di questi giorni, e così spazio ancora un po' di musica prima di partire con le robe più pesanti. Eccoci qui in linea, sì, cioè in voce, per così andare a affrontare un po' queste considerazioni che volevo fare stasera su Zardins Magnetics. E quando così abbiamo preso un po' in mano questo spazio, cioè negli ultimi anni intendo, e non avevamo, almeno io non avevo granché in testa dove si andava a parare, nel senso cioè il senso anche che aveva fare questi interventi, Ma via via, per me, diciamo, questi interventi hanno cominciato a avere un senso, quantomeno per me, spero anche per qualcuno, insomma, due, tre di quelli che stanno ascoltando, e nel senso che due motivi. Uno, l'importanza delle testimonianze, diciamo, o delle così vicende che coinvolgono i compagni prigionieri anarchici e le compagne anche, insomma, di questi anni, e il dargli voce non perché appunto sono i nostri eroi, sono persone, insomma, diverse, con poteri speciali, chissà che, ma perché appunto hanno fatto un'esperienza, diciamo, sono spinti, e questo ha permesso loro di evolvere in qualche maniera nella loro lotta, e gli dà, diciamo, un passaporto per indicare a tutti gli altri, a tutti noi, e, diciamo, a che punto siamo con questo viaggio, ecco, diciamo, ecco, da fare una specie di anche di carta geografica, ecco, oppure una specie di non so, sì, spazialmente, però quali sono i tempi, ecco, gli obiettivi, le tempistiche di queste, di quelle a cui miriamo, ecco, a cui tutti noi che lottiamo abbiamo di mira. Primo motivo, quindi, questo dei prigionieri. E secondo motivo, via via che mi si è così chiarito, è che questo poteva diventare uno spazio e un tempo, questo qui di Zardins Magnetics, per riconquistare una dimensione che appunto era finita, compressa, diciamo, se vogliamo essere ottimisti. Se vogliamo essere pessimisti, invece, era stata completamente espropriata sia da diciamo dalla controparte, ma anche, però, dobbiamo dire, dalle dinamiche, determinate dinamiche interne dei movimenti, e quindi non c'era più un, cioè, per me non c'era mai stato, ecco, diciamo anche francamente, un momento o uno spazio dove mettersi a così misurarsi, ecco, misurarsi con determinate problematiche, ma anche senza voler, cioè, senza voler arrivare a soluzioni pronte, schematiche, eccetera, semplicemente tirar fuori anche qualche volta le grane, vedere se sì, come sono fatte, quanto grandi sono, dove andiamo a parare, se cerchiamo di come cerchiamo di affrontarle, eccetera eccetera, ecco. Ad esempio, nel passato, così adesso entriamo un po' più nel merito di questa sera, l'autogestione, e siccome, allora, appunto, io ho preso rispettivamente due articoli di due compagni prigionieri anarchici in Italia, appunto, nelle carceri italiane, dove in uno, appunto, vedremo, insomma, proprio si prende in esame la questione dell'autogestione, nell'altro invece si esamina un po' in maniera un po' più, diciamo, un po' più teorica, in cosa consisterebbe il metodo anarchico al di là del, diciamo, dell'economicismo, ecco. Non che l'economicismo sia a priori da scartare, tutto il contrario, ma quali sono i rischi, le ricadute, diciamo, di andare incontro a una struttura di pensiero dualistica, quando le priorità, appunto, del metodo di pensiero anarchico sono qualitativamente, ma anche radicalmente, c'è una discontinuità, no? con quanto quello che porta, insomma, al dualismo e al meccanicismo, no? Poi vedremo, cercheremo di vedere questo. Gli esempi che porta, che vengono dal passato, che porta appunto il primo articolo, quello sull'autogestione, vanno alla Spagna. Io in realtà ero partito da un libro importante che è stato ristampato in italiano l'anno scorso, è quello di Vernon Richards, che è Insegnamenti della Rivoluzione Spagnola. E perché proprio là si dice, ecco, per chiudere adesso un po' questo cappello che ho fatto, proprio in quel libro lì si racconta che i contadini avevano, cioè, parlando dell'autogestione nel campo, appunto, dell'agraria, non me lo sono segnato, però dice nei villaggi più spersi della Spagna, magari c'erano gli attrezzi anche rovinati, si utilizzava gli animali ancora c'era ancora l'aratro, quello dei romani, ma non mancava durante la rivoluzione, non mancava da nessuna parte il microfono cromato, cioè voleva dire che in ogni centro della Spagna in rivolta, in rivoluzione, si tenevano, lui li chiama conferenze, però gli anarchici avevano questa chiamiamola tradizione, comunque questo loro sistema di trasmissione dei saperi basato sulla discussione, sulla esposizione di un problema e sulla discussione orizzontale, no, di questo problema. Anche per quello, insomma, rivolto sia a chi aveva competenze, insomma, più o meno, ma anche a chi era quasi analfabeta, ecco, per dire. Quindi questo qui è l'argomento di cercheremo di vedere stasera. Dopo un brano musicale vi presenterò gli articoli, insomma, che avevo scelto. I wanna break that original. Sì, eccoci qua. Allora, parleremo di autogestione. Io in realtà non mi sono preparato, sto improvvisando un po' la scaletta, ma per non fare troppa confusione seguo, diciamo, l'ordine in cui insomma ho deciso di presentarvi gli articoli. Quindi il primo articolo era sui giorni e le notti numero 6 del febbraio 2018, non è firmato, ma diciamo è facile attribuirlo, non è difficile, diciamo. Si intitola Appunti sull'autogestione. Sì. Appunti sull'autogestione. E sì, lui dice, penso che, cioè, è quasi sicuro che è Luca Dolce, no? L'autore. Dice, partiamo. Per studiare il concetto di autogestione mi sono imbattuto in varie esperienze, però mettiamo in chiaro una cosa: per gli anarchici parlare di autogestione vuol dire che si hanno, cioè si possiedono delle proposte di lotta. Le proposte sono dirette sia ai compagni e alle compagne, però anche agli sfruttati, alle persone, diciamo, anche più non preparate, le persone semplici o anche complicate, ma insomma non direttamente impegnate nelle lotte. Queste proposte hanno a che fare con un modo di vivere, cioè devono offrire una struttura completamente diversa dal modo di vivere autoritario, che è quello diciamo quantitativamente più che noi sperimentiamo di più, ecco, nella nostra quotidianità. Quindi chi lavora, insomma, lo sa benissimo. Beh, quelli, insomma, la maggior parte delle persone che lavorano, quindi, sono sotto la disciplina e sanno questo cosa vuol dire. Poi c'è il, insomma, se non c'è il lavoro c'è, sono altre gabbie, altri tipi di ruoli simbolici o meno, insomma, che comunque rimandano sempre a questo, così modo di sistema di vita autoritario dettato dal dominio, ecco. Se andiamo al passato ci sono vari esempi in cui è stato possibile appunto offrire delle aperture, diciamo, delle prospettive diverse, soprattutto agli sfruttati, e gli sfruttati hanno mostrato con la pratica meglio dei compagni a come si potevano affrontare gli ostacoli davanti che si ponevano, insomma, per raggiungere l'autonomia completa di una situazione, no? Quindi se le proposte sono intelligenti e parallelamente sono anche, esprimono una volontà, diciamo, schietta di autonomia, l'autogestione è una proposta di lotta che funziona. Guardando al passato abbiamo l'esempio del Neolitico, cioè prima delle grandi civiltà, prima delle grandi dei grandi imperi autoritari, strutture più complesse, sono testimonianze ancora che sono esistite forme di comunità dove appunto i gruppi di persone, diciamo così, non erano obbligati a lottare per avere la loro per scegliere come, insomma, come strutturare la propria vita. Quindi questa è testimonia che appunto sia che queste, diciamo, prospettive di autogestione che abbiamo noi oggi non sono una pura utopia, e seconda cosa, testimonia anche che sono esistenti, no, come ho già detto appunto, non sì, che la lotta non è una, cioè non siamo non abbiamo colpa, come si dice, non ci sono forme di punizione per cui bisogna lottare, siamo costretti a lottare perché appunto siamo stati, abbiamo un peccato originale, siamo cattivi, non so, cioè no, è diverso, sono emerse queste forme di dominio a un certo punto nel corso della storia, e le altre forme di, diciamo, di vita più libere e più appunto indipendenti sono scomparse, cioè sono state espropriate da queste grosse strutture. Poi, appunto, si parla di esempi, diciamo, poi anche più vicini storicamente, sì, dal punto di vista temporale, quindi si fa l'esempio della Jugoslavia, dell'Algeria, e ancora più vicino una fabbrica. Sì, l'autogestione è una lotta di operai in Grecia, penso negli ultimi 15 anni si parli, non sono andato a guardarmi, comunque qualcosa del genere. E quanto riguarda le campagne, cioè meglio, cioè il campo, diciamo, dell'agricoltura, il campo dell'industria, della manifattura, in entrambi i casi ci sono stati enormi cambiamenti rispetto alle proposte che, diciamo, gli scrittori, gli autori anarchici, tra virgolette, tradizionali, erano riusciti a fare partendo dalle analisi del campo, insomma, del campo lavorativo di quell'epoca, dell'epoca appunto di primi del Novecento, fine Ottocento. Però nonostante questo rimane il fatto che comunque, anche se per esempio l'agricoltura rimane sempre un'attività che è più facilmente riportabile a livello, diciamo, di autogestione, nonostante che sia oggigiorno trasformata in agroindustria. In ogni modo, la semplicità delle tecniche permette comunque, e l'intuitività delle tecniche permette comunque di prospettare una possibilità più concreta, ecco, di autogestione, mentre invece per le fabbriche il discorso è un po' più complicato, perché c'è stata proprio una divisione rigida tra, appunto, tra chi ha le competenze, tra i tecnici che appunto hanno hanno le conoscenze necessarie a far funzionare i macchinari che producono appunto l'utensile, che sia grezzo o meno, ma non tutti, per esempio ciascuno sa il proprio macchinario. Si fa l'esempio, per dire, questo mi era rimasto impresso, della pasta Zara, che anni fa, diciamo, quindi questo articolo 2018 dice 2 anni fa è stato inaugurato uno stabilimento a Trieste, la pasta Zara, in grado di produrre in un'ora 12.000 kg di pasta, e quindi potrebbe sfamare tutta la provincia di Trieste in un anno, no? E sarebbero 75.000 tonnellate di pasta all'anno solo per la provincia di Trieste. Lui dice, gli operai di questa fabbrica sono solo incaricati di utilizzare i pallet per i transpallet per portare appunto i pacchi sui camion alla fine, perché entra la materia prima, esce direttamente la scatola. Ecco, c'è un macchinario che viene fatto a Reggio Emilia da un'altra ditta e nessuno sarebbe in grado, anche se ci fosse una lotta insomma che porta all'autogestione di quella fabbrica lì a Trieste, nessuno saprebbe come metterci le mani. Ecco, si parla di pasta, ecco, di quindi una cosa primaria, ecco, di come mandare avanti la società, ecco. E l'ultime così pagine di questo articolo che si intitola Appunti sull'autogestione, le ultime pagine appunto ritornano a questo discorso che facevo prima degli spazi e dei tempi. Dice Stecco: quello che è importante ma anche interessante dell'autogestione, perché catturi diciamo l'attenzione, dia un po' di alla molla, ecco, per agire anche a chi non è lì tutto il tempo a elucubrare idee su come sovvertire la società, no? L'autogestione deve poter creare degli spazi in cui gli sfruttati possano sperimentare lo stare assieme, cioè lottare per degli obiettivi che mirino a sempre maggiore libertà e anche dettare i tempi di confronto su cose, come fare quello che serve, no? Allora se qualcuno sperimenta diciamo empiricamente queste situazioni e si mette in gioco, e quindi diciamo c'è una crescita inaspettata, ecco, di conoscenze e anche di pratiche sul campo immediatamente e nel vivo di una lotta. Contemporaneamente si saldano i legami tra i compagni sfruttati, crescono questi legami e fanno a loro volta conoscere meglio il che cosa e il come dell'autogestione. Un altro ultimo punto importante che è messo in evidenza da Stecco in questo articolo è che sono molto importanti anche nelle lotte l'assorbire conoscenze e l'unirsi agli uomini e alle donne che hanno disertato i propri ruoli con armi e bagagli. Perché? Perché lì sappiamo ancora di più, diciamo, impariamo a essere autonomi e autodifesi dalle insidie che il sistema, diciamo, autoritario continuamente manda avanti, o insomma, se non si è vigili, se non si è così consapevoli di tutte le possibili fregature durante anche una lotta. Quelle figure lì, quelli che hanno disertato i propri ruoli, sono possono essere una guida. E questo era il primo articolo che ho voluto proporvi. Better die. Live my fucking life. E stiamo ascoltando in sottofondo, tra i vari interventi, questa band californiana, gli F-Minus, band che è esistita tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000. Questo è l'album datato 1999, F-Minus. Eccoci, eccoci di nuovo qui con il discorso sull'autogestione, e facciamo un salto, diciamo, invece che continuare con gli articoli della rivista I Giorni e Notti, saltiamo appunto a questa ristampa del libro di Vernon Richards, Insegnamenti della Rivoluzione Spagnola, che è stato curato dalla Biblioteca Anarchica Disordine nel 2023. Il libro, insomma, in edizione in Inghilterra, è uscito nel 1953 e poi in Italia una prima edizione nel 57, poi negli anni 70, e quindi erano un bel po' di anni che non veniva più proposto. Ci sono anche delle considerazioni nell'introduzione, diciamo, da parte di chi ha curata questa ristampa. Ci sono considerazioni anche importanti, però noi adesso andiamo direttamente nel vivo del racconto. È un libro, appunto, chi lo ha già letto lo sa, non è un libro, io non ho poi, tra l'altro, quasi zero conoscenza storica della questione, e questo libro qua non offre non aiuta, diciamo, a avere un'idea storica. Ci sono dei consigli di bibliografia, dei libri, appunto, più curati nel racconto delle vicende. Questo libro qui, appunto, Insegnamenti, si intende far tesoro dei grossi errori che sono stati compiuti dai nostri compagni, no? Si parla direttamente al movimento anarchico qui, non si punta il dito su altri, e principalmente alla Siente, no? al sindacato, così, di ispirazione libertaria, molto, che era molto presente, molto rappresentativo, diciamo, in quel momento, in quella fase. Ecco, leggo qualche riga. La questione, no, solo per dire, la questione era di come, insomma, come si è arrivati al trasformare, diciamo, l'obiettivo di questa lotta, che appunto è partita nel momento in cui i generali hanno proclamato, insomma, la loro rivolta allo Stato repubblicano, e gli sfruttati direttamente gliel'hanno hanno impedito che questi militari prendessero il potere con le loro forze. Per la riuscita della rivoluzione sociale era necessario che i lavoratori emergessero dalla lotta armata contro Franco più forti di quando vi erano entrati, e si assicurassero che i partiti politici ne emergessero più deboli. Ciò implica che nel corso della guerra le organizzazioni operaie dovessero rafforzare il controllo sulla vita economica del paese, cioè, come produttori della ricchezza economica del paese, avrebbero dovuto consolidare il loro controllo sui mezzi di produzione. e nello stesso tempo assicurarsi che il controllo della lotta armata nella quale essi erano sia combattenti che produttori nelle industrie belliche non si sviluppasse in maniera da permettere che si robustissero le istituzioni del governo, lasciando che il controllo delle forze armate passasse nelle mani dei politici. La collaborazione della CNT al governo, per quanto possiamo giudicare dalle testimonianze, non ebbe come risultato alcun miglioramento nella situazione militare. Essa, però, aggiunse certamente prestigio al governo e indebolì la CNT come organizzazione rivoluzionaria agli occhi dei lavoratori. Scusate, altro, saltiamo in qualche pagina, si va proprio nella descrizione di come venivano. Ah sì, quello che dicevo prima, penso che sia più o meno da queste parti, il discorso sui microfoni cromati. Questa è una citazione di un osservatore diretto, ovvero Gaston Leval, né Franco né Stalin, un libro sempre degli anni 50. Un oratore poteva strappare nel plenum, si intende della CNT, una decisione di collaborazione, ma rientrati in se stessi, tutti i nostri compagni ritornavano alle loro profonde convinzioni e continuavano l'opera rivoluzionaria. Si intende i lavoratori spagnoli, no? Sì, i compagni anarchici spagnoli che erano anche, diciamo, avevano di mira, questo era un movimento molto, diciamo, pragmatico, diciamo così, c'erano tanti funzionari, molto pochi per fortuna, e invece tanti diciamo militanti, chiamiamoli così. Questi uomini erano capaci tanto di prendere le armi quanto di amministrare una collettività, di lavorare la terra, maneggiare il martello o guidare un'assemblea locale o sindacale con le loro opinioni sensate sui problemi pratici che occorresse risolvere. E grazie a questa potenza e all'attività concreta della base del movimento libertario spagnolo, particolarmente di quelli tra i militanti che avevano acquistato nei sindacati della CNT un'esperienza fatta di lunghi anni di lotta, che le organizzazioni libertarie hanno potuto svilupparsi malgrado la rinascenza, più esattamente il consolidamento dello Stato e lo sviluppo dei partiti politici governamentali. E ci fu anche un tentativo, dice sempre in questi frangenti, in queste fasi qui, nell'ottobre 36, quindi si parla dei giorni di luglio, no? Che era un po' così la scusa, la ricorrenza era che era luglio, come adesso. Nell'ottobre 36 si verificò un serio incidente che merita di essere ricordato in quanto dà un'idea dell'atteggiamento e del carattere dei miliziani anarchici all'epoca in cui i loro capi trattavano con Caballero e si dividevano i portafogli ministeriali. Ci riferiamo alla Columna de Hierro, la colonna di ferro, in quel tempo di guarnigione al fronte di Teruel, che fece un'incursione armata nelle retrovie a Valencia, quando si accorse che là le armi abbondavano, non a vantaggio degli uomini che combattevano al fronte, ma allo scopo di rinsaldare il potere del governo. Un manifesto emanato in seguito dalla Columna precisava che essa aveva precedentemente inviato le seguenti richieste alle parti interessate. Scusate, mi viene in mente che ho saltato un pezzo dell'articolo di Stecco, dove lui dice appunto, cioè della sua così analisi, risultava appunto che una cosa fondamentale diventa anche l'esproprio, cioè non l'esproprio fine a se stesso, così rubare per, diciamo, per arrivare alla fine della giornata, è sempre un discorso mirato a una situazione collettiva di autogestione, dove appunto però quello che serve ce lo prendiamo, se serve, insomma, senza fare, adesso è inutile anche fare esempi, ma voglio dire l'esproprio, ma che sia mirato, non sia così una bandiera ideologica così solo sì, puramente simbolica così, ma il discorso dell'esproprio, così come appunto adesso leggendo queste righe mi è tornato in mente. Poi lui lì diceva anche un'altra cosa importante, che sono questi metodi che non hanno a che fare con, e quindi sono proposte sempre proposte di lotte, proposte di lotta, le autogestioni devono essere proposte di lotta, non possono andare insieme con altre pratiche che non sono di lotta, ecco. La Columna precisava che si aveva precedentemente inviato le seguenti richieste alle parti interessate: scioglimento completo della Guardia Civile e invio al fronte di tutte le forze armate a servizio dello Stato. Si chiedeva altresì la distruzione degli archivi e gli incartamenti di tutte le istituzioni capitalistiche statali. Allora, due punti fondamentali ritornano anche nell'articolo di Stecco, queste qui. Boh, cioè questa della distruzione tornava veramente. È collegato al discorso dell'esproprio. Quindi erano in questa zona di Valencia, c'erano ammassate delle componenti delle forze dell'ordine dello Stato repubblicano, con tutte le loro, diciamo, sì, erano dotati le loro dotazioni. Nonostante che ci fosse in corso una battaglia vera e propria, un fronte, diciamo, contro i generali, contro i ribelli franchisti. E per cui questa colonna di ferro non sta a aspettare, diciamo, con l'impazienza che contraddistingue l'iniziativa. E va lì, li disarma e li cerca di mandarli a calci in culo al fronte, e appunto, e dove trova questi archivi dell'anagrafe, così come si chiamano, le dove ci sono i vari archivi, insomma, comunali con le segnate le proprietà, eccetera eccetera, li distrugge. Noi basavamo questa petizione, dichiararono, su opinioni rivoluzionarie ideologiche. Come anarchici e rivoluzionari comprendevamo il pericolo rappresentato dalla prolungata esistenza di un corpo puramente reazionario come la Guardia Civile, che in tutti i tempi e particolarmente durante questo periodo ha dimostrato apertamente il suo vero spirito e i suoi metodi. Per noi la Guardia Civile era insopportabile e non volevamo vederne continuare l'esistenza, perché per troppe ragioni non avevamo fiducia in essa. Per questa ragione chiedemmo che fosse disarmata e per questa ragione la disarmammo. Chiedemmo che tutti i corpi armati fossero inviati al fronte, perché al fronte vi è deficienza di uomini e di armi, e il fatto di lasciarli in città in vista dell'attuale situazione era ed è un intralcio. Abbiamo ottenuto ciò solo in parte e non cederemo finché tutto sarà completato. Infine chiedemmo la distruzione di tutti quei documenti che rappresentavano un passato completamente tirannico e oppressivo contro il quale le nostre libere coscienze si ribellavano. Distruggemmo gli incartamenti. Questi obiettivi ci portarono a Valencia e li raggiungemmo usando i metodi che ritenemmo più adatti. Ecco, era solo un piccolo esempio, appunto, che fu portato a compimento in una situazione specifica. L'autore qui, Richards, dice in realtà il discorso andava portato, diciamo, in una maniera più estesa di tutta la situazione spagnola, non purtroppo. Questo è stato un esempio valido ma isolato. Altrove invece hanno preso la mano questi funzionari, questi capi, diciamo, del sindacato, e hanno così ribaltato un po' quelli che erano i principi così accettati da tutti, da tutto il movimento anarchico. We'll be right back. Eccoci, andiamo a questo punto, all'ultimo articolo che vi proponevo per stasera. È l'articolo scritto da Juan Sorroque sull'ultimo numero di I giorni e le notti. Questo appunto lo potete trovare, se siete abitate qui nei dintorni lo distribuiamo al banchetto in via De Rubeis, ad esempio. Allora, un titolo lungo: individualismo anarchico contro comunismo anarchico, oppure comunismo anarchico con individualismo anarchico. Adesso questo è naturalmente un invito ad andarvi a leggere l'articolo, non è una presentazione, un svelamento di tutti i contenuti dell'articolo, e quindi diciamo è quello che voglio mettere in evidenza io personalmente. Lui parte da un contributo che era stato fatto, mi sembra, su uno dei primi numeri dei giorni e le notti. È un articolo, cioè, che era stato discusso, meglio, che la redazione dei giorni e le notti, di cui Juan Sorroque faceva parte prima di essere imprigionato, aveva discusso questo contributo di un'altra iniziativa editoriale, si chiamava Vetriolo, dove si appunto presenta, io non ho letto, L'anarchismo rivoluzionario contro la desistenza, che io non ho letto, dove emergeva una questione relativa appunto al comunismo anarchico, in particolare la proposta di Carlo Cafiero. Allora, invece qui si dice: prima cosa che io voglio esaminare non è prendere le distanze dall'economicismo, cioè l'economia, non è che gli anarchici sono con la testa tra le nuvole, improvvisano continuamente e quindi si disinteressano dell'economia, non è questo. Il discorso è che non si può mettere in piedi un discorso, per esempio, sull'economia, sul materialismo, diciamo, economico, sul funzionamento economico materiale della realtà, senza tener conto della sensibilità. Secondo appunto la prospettiva anarchica, la sensibilità è, diciamo, è più importante, potremmo dire, cioè viene prima logicamente di qualunque analisi materialistica. Perché? Perché ogni proposta, diciamo, in campo anarchico è strettamente legata, ogni proposta è strettamente legata all'individualità, al vissuto, ma anche all'esperienza, ma anche alle visioni dell'individualità libera che si determina per offrire questa proposta, diciamo così. I problemi puramente materiali dell'economia oggettiva non possono essere separati fisicamente dalla sensibilità soggettiva. Si intende affrontare questioni tanto complicate, per di più, dice, come la realtà dello Stato moderno o del capitalismo. Ecco, sono anche questioni, diciamo, terminologiche queste, un uso particolare, insomma, dei termini che fa Juan Sorroque. Comunque, per arrivare, diciamo, a un punto, è quando noi seguiamo, ci lasciamo così trasportare dallo schema, diciamo così, dallo schema economicistico, semplificando, questa cosa qua ci porta pari passo a una concezione meccanicistica e cioè dualistica, e cioè di separazione tra, se vi ricordate che avevamo letto un'altra proposta, insomma, mesi fa di Juan Sorro, che c'erano le due radici, no? Le due radici di una pianta, che non possiamo tagliare l'individualità, se no muore il collettivo, muore, e viceversa, no? Che deve esserci una circolarità, una conversione continua, sia della teoria nella prassi, sia dell'individuo nel collettivo, nel plurale, diciamo così. E quindi quando ci si organizza in prospettiva anarchica, ci si organizza in maniera orizzontale e qualitativa, e quindi non ci possono essere limiti, come quella che è la proposta, appunto, che faceva Caffiero. Questo, insomma, si lega un po' al discorso che facevamo prima, l'importanza dell'immediatezza dell'esperienza, insomma, che tutte le cose che può insegnare l'esperienza diretta, la lotta, appunto, concreta, lo sperimentare l'autogestione sul campo, non star tanto a teorizzarla o non mettere così o metterli una toppa per dire questa è una situazione autogestita, così non la si fa breve. E ecco, queste sono le questioni che è importante aver sempre presente, che mettere a fuoco, su cui ritornare, su cui magari e senz'altro ritorneremo ancora, e per questa puntata però ci fermiamo. Stiamo ascoltando questa band storica spagnola, i Sin Dios, dal loro album datato 1991, Ruido Anticapitalista. We'll be right back. Ecco, un saluto anche da parte mia. Arriviamo al momento del, si diceva all'inizio, degli aggiornamenti, diciamo, sull'estate rivoltosa delle carceri, ma anche dei CPR. Boh, abbiamo poco tempo, quindi magari mi concentrerei sul Coroneo, perché appunto una settimana fa, lo scorso venerdì, c'è stato questo presidio solidale all'esterno del carcere, dove l'11 luglio appunto c'è stata questa rivolta importante che ha coinvolto buona parte dei prigionieri, appunto rivolta che poi è stata diciamo sedata con le maniere forti. C'è stato anche un prigioniero, Sdenko, che è morto il giorno dopo, è stato trovato morto, e si è scatenata la solita propaganda, diciamo, di detenuti tossici che saccheggiano le infermerie, si appropriano dei farmaci e poi dopo appunto muoiono di overdose. Appunto, la causa della morte di questo prigioniero sembra sia stata l'overdose da metadone, ma mentre diciamo l'informazione mainstream e le veline della questura e della polizia penitenziaria portano avanti queste teorie, in realtà omettono il fatto che l'abbandono sanitario, perché anche in questo caso si è trattato di abbandono sanitario, infatti il prigioniero è stato trovato senza vita dai suoi compagni di cella, non c'è stato nessun tipo di vigilanza sanitaria sulla sua situazione. Dicevo, l'abbandono sanitario, il maltrattamento sanitario è una vera e propria forma di tortura, di annientamento degli individui all'interno delle istituzioni totali, quindi è totalmente intenzionale, non è una trascuratezza legata alla disattenzione, ma è una trascuratezza dolosa e criminale e assassina che lo Stato mette in atto attraverso i suoi servitori. Questo qui, diciamo, un po' per fare sintesi, per ricordare che cosa è successo a Trieste. Lo scorso venerdì il presidio è stato molto importante perché c'è stato questo contatto molto forte, insomma, diretto con i prigionieri, soprattutto con la sezione maschile. Il fatto che il Coroneo sia un carcere cittadino, quindi sia solamente una strada, diciamo, tra i manifestanti e i detenuti, c'è una strada che divide, oltre chiaramente alle grate, però c'è la possibilità di vedersi, diciamo, abbastanza da vicino, e anche c'è questa fisicità dei prigionieri che appunto escono, no, con le mani, con le gambe dalle grate, proprio, cioè, esprimo in una maniera veramente fisica, forte, insomma, la loro presenza, cioè la loro presenza non passa inosservata, e siamo riusciti ad avere un dialogo importante non solo su quello che succede dentro, ma anche sulla tensione, diciamo, che c'è da parte loro di non lasciarsi distruggere. E questo, insomma, è stato alcune ore di condivisione importante e di tentativi di unione di intenti, diciamo, di comprensione anche delle diverse situazioni che si vivono, ma in un'ottica di lotta, proprio un detenuto ha detto, di guerra contro l'oppressione. Ricordo che la situazione è tale per cui un detenuto che con un piede rotto è stato curato solo perché alcuni passanti solidali hanno chiamato i 112, perché la direzione e il comando, insomma, delle guardie penitenziarie si rifiutavano di prestare soccorso, di chiamare i sanitari, insomma, per dire la situazione quando si parla di così trascuratezza sanitaria, cosa si intende, no? Cioè, sono cose che proprio distruggono una persona che è già in prigionia, che già è in cella con altre 9 persone, che già non può gestire nessun tipo di liberamente, nessun tipo di quotidianità, si trova in una condizione del genere. Cioè, immaginatevi già fuori, se ti capita una cosa del genere, che ti rompi una qualcosa e nessuno ti cura e ti lasciano lì. Cioè, è una roba brutta, in quella condizione lì è una roba devastante, e questo è una cosa ordinaria. Però come si diceva venerdì scorso davanti, insieme ai detenuti e alle detenute del Coroneo, finché ci sono sbarre e finché c'è oppressione e finché ci sono sbirri, ci saranno sempre rivolte. E infatti in questa estate qua, 2024, le rivolte si susseguono a ritmo incalzante, e perché poi più ce n'è, più anche i soggetti prendono coraggio, no? Allora, il 10 luglio, quindi un giorno prima di Trieste, c'è stata la rivolta al Mamma Gialla di Viterbo, al carcere Mamma Gialla di Viterbo, appunto, rivolta scoppiata in seguito alla morte di un giovane prigioniero immigrato. Forse questa morte è dovuta a un malore, non, comunque era rinchiuso nel reparto comune, e c'è stata la distruzione totale di un piano, quindi non bruscolini. Poi appunto 11 luglio Trieste, ma ad esempio anche due giorni fa, mi pare, non mi ricordo adesso il giorno preciso, comunque due giorni fa c'è stata anche una rivolta al carcere di Gorizia. Ecco, tra il 22 e il 23 luglio al carcere di Gorizia, anche lì è stata subito, chiaramente, giornali di regime, è stata subito silenziata in maniera vergognosa, cioè si sono limitati a dire sono arrivati i vigili del fuoco, tutto a posto. E tra il 23 e il 24 luglio c'è stata una rivolta importante al carcere di Venezia, dove c'è stata la devastazione della rotonda, dell'ufficio di sorveglianza generale, la distruzione dei registri e dei tavoli. E ricordiamo che dall'inizio dell'anno ci sono stati 58 suicidi in carcere, dei quali due a Venezia. Anche qui qual è la narrazione istituzionale? La rivolta è stata condotta da due prigionieri tunisini, cioè come se fosse possibile. Insomma, è ovvio che, perché allora loro dicono sì, è partita da questi due prigionieri tunisini, perché uno dei due per un mancato trasferimento e l'altro per, anche lui, per grossi problemi sanitari, no? E quindi personalizzano, diciamo, il racconto che l'istituzione penitenziaria e non solo i giornalisti fanno di questi fatti, è il tentativo di minimizzare e personalizzare. E allora c'è stato poi Sollicciano, Firenze, appunto, anche lì rivolte. Ci sono state le rivolte la rivolta al CPR di Gradisca, tra l'altro anche lì magari approfondiamo un'altra volta. Comunque c'è stata una presenza solidale giovedì, c'era la carovana per i migranti, e anche lì chi ha potuto partecipare, insomma, perché era di mattina, c'erano parecchie, una presenza consistente, solidale, però totalmente imprigionata, diciamo, dalle forze dell'ordine, e che addirittura la Digos, la solita Digos, che sì, insomma, cioè, non so, pensano di non essere individuati, ma invece sono individuati, cercava addirittura di mescolarsi con i manifestanti, ma sono stati chiaramente mandati via. E è di oggi alle 12 una rivolta al CPR di Ponte Galeria a Roma, per appunto proprio mirata per protestare per le condizioni disumane che i prigionieri si trovano a vivere. Ricordiamo che a febbraio c'era stata una grande rivolta dopo il ritrovamento, sempre a Ponte Galeria, dopo il ritrovamento di un ragazzo di 22 anni della Guinea, Ousman Silla, che è stato trovato impiccato nella sua cella. E visto che abbiamo parlato di autogestione e di organizzazione delle lotte, di senso dell'autogestione nella prospettiva della lotta, e quindi non solamente come dimensione, diciamo, che ti mette a posto la coscienza, per così dire, nella vita normale, nella vita che non presuppone una tensione di cambiamento radicale. E così sono arrivate delle lettere, degli interventi di stecco dal carcere di Sanremo, perché anche al carcere di Sanremo, infatti l'abbiamo detto anche a Trieste al presidio, ci sono state delle proteste in giugno, appunto verso il 25 giugno, e praticamente hanno deciso i detenuti di riunirsi in assemblea durante l'aria e niente, hanno discusso e hanno deciso insomma di fare qualcosa e quindi hanno proposto questa, ci racconta Stecco insomma. Lunedì scorso era uscita la notizia di 4 suicidi in un giorno nelle carceri. Dopo una breve discussione all'aria, il pomeriggio ci si trova in saletta per discutere se si vuole fare qualcosa. C'è chi spinge forte e chi dice che forse è meglio testarci prima, visto che non ci si conosce e non c'è fiducia in generale. Visto che c'è voglia di fare, si propone subito una battitura la sera, senza aspettare di comunicare le altre sezioni. Insomma, ci sono poi dei problemi di comunicazione perché non è semplice e quindi alcune sezioni, anziché la battitura, rifiutano il carrello, ma comunque aderiscono alla protesta. Alla battitura facciamo un bel casino, su 16 celle si batteva in 10, solo un cellone non ha battuto. E vabbè, poi sembra che, qui ecco, era il 17 giugno, poi dice Stecco, sembra che il giorno dopo anche al carcere dei Marassi di Genova abbiano fatto casino. E avanti, però che cosa succede anche qua? Come agisce la repressione? Agisce appunto individualizzando, colpendo alcuni soggetti che magari si espongono, o proprio per applicando diciamo il diritto penale del nemico, cioè chi sei e non che cosa hai fatto, cioè attaccando chi sei e non che cosa hai fatto. Appunto, dopo la prima battitura, il nome di Stecco viene nella bocca della repressione e comunque cominciano insomma a dirgli robe, le guardie venivano da me e come se fosse automatico che sia stato io a organizzare, dai dolce, digli di smettere. Io rispondevo come deciso, cioè in maniera ineccepibile. 4 morti in un giorno, 44 dall'inizio dell'anno, questa è la protesta, niente di più, niente di meno. I primi 3 giorni la battitura è continuata dalle 20 alle 21 e poi dalle 12 alle 13. Un capoposto metteva zizzania dicendo cose tipo lasciatelo stare quello lì, ha le sue idee, ne ha di galera da fare, cosa vi mischiate? Gli altri lo hanno mandato garbatamente a farsi un giro. Il lato positivo è che tra alcuni la fiducia è aumentata, non posso dire saldata, ma c'è un po' più di unione. E difatti, quando appunto Luca Stecco viene così molestato dalle guardie, no? Che lo identificano come uno dei promotori, moltissimi detenuti propongono di fare una lettera dove dicono no, abbiamo agito individualmente, cioè tutti quanti, ogni prigioniero che ha deciso di aderire alla protesta lo ha fatto con la sua coscienza individualmente, quindi comunque esprimono in questo modo una solidarietà. E che cosa succede però? Che Stecco viene chiamato dalla direttrice insieme al vice comandante, i quali dicono che è stato lui a organizzare la battitura e gli propinano 10 giorni di sanzione amministrativa che prevede l'esclusione dalle attività sportive e cose simili. Stecco dice a me non cambia nulla, io ho sempre le mie cose da fare. E successivamente appunto il 5 luglio gli è stato fatto il consiglio disciplinare in cui di nuovo ha dovuto declinare la questione di essere promotore, insomma riconfermando i motivi della protesta eccetera, e quindi dall'8 di luglio ha iniziato, ormai quindi li ha finiti, questi 10 giorni di sanzione disciplinare senza palestra, campo sportivo, saletta e forse socialità. Ecco, questo per dire insomma, anche per esprimere a Luca e a tutti comunque i prigionieri che si rivoltano, che protestano e che, come diceva un detenuto a Trieste, ci mettono la faccia. E anche per dire però che in ogni, come si diceva prima, insomma, spesso i compagni che sono dentro, insomma, che quindi hanno fatto questa, cioè sono dentro perché hanno fatto una scelta di mettere in pratica appunto i principi dell'anarchia, perciò questa loro esperienza è come dire contagiosa, nel senso che è una, arricchisce qualunque situazione in cui loro si trovino, e appunto riesce a a esprimere cose importanti anche nel gabbio. E ecco, contemporaneamente la repressione colpisce appunto non solo questi compagni che sono già dentro e che vengono così additati, ma anche i solidali e le solidali che sostengono questo, queste rivolte, queste ribellioni. Però questo non ne abbiamo già parlato, ma insomma magari ne riparleremo ancora, perché ad esempio a Bolzano sono successe delle cose molto pesanti, e fogli di via, per dire, consegnati nel bar semplicemente per presidi anticarcerari, cioè lì subito dopo i presidi anticarcerari. E sì, intanto per oggi questo. E speriamo insomma che l'estate dell'anarchia, ma anche della rivolta, non sia, sì, continui ancora. Bene, sulle note di questo brano, che è di apertura per questo album di questa band inglese della zona di Londra, loro erano i Momentum, album d'esordio Herbivore, datato 2009. E appunto sulle note di questo brano ricordo che stiamo trasmettendo da Radio Onde Furlane da Udine la trasmissione Tardis Magnetics. Siamo proprio al termine, anzi proprio agli sgoccioli estremi, anzi abbiamo superato il tempo limite. È Tardis Magnetics oggi giovedì 25 luglio 2024. Ricordo che ogni giovedì siamo in diretta dalle ore 20 alle 21.30. Il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Vi lasciamo i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica scrivete a liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Ricordo che questo programma domani va in replica sulla web radio di Padova Radiazione dalle ore 17, e se volete riascoltare sempre questo programma e tutte le volte scorse potete andare in rete, cercare zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao, al prossimo giovedì, e vi lascio con questi Momentum dal loro album Herbivore. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Lear, late at night on the cliffs, asks the blind Earl of Gloucester, how do you see the world? And the blind man Gloucester replies, I see it feelingly. And shouldn't we all? Animals must be off the menu because tonight they are screaming in terror in the slaughterhouses, in crates and in cages. Vile, ignoble gulags of despair. You see, I heard the screams of my dying father as his body was ravaged by the cancer that killed him. And I realized I'd heard those screams before. In the slaughterhouse, their eyes stabbed out and their tendons slashed, on the cattle ships to the Middle East, and the dying mother whale as a harpoon explodes in her brain as she calls out to her calf. Their cries were the cries of my father. And I discovered that when we suffer as equals. And in their capacity to suffer, a dog is a pig, is a bear, is a boy. Meat today is the new asbestos, more murderous than tobacco. CO2, methane, and nitrous oxide from the livestock industry are killing our oceans with acidic, hypoxic dead zones. 90% of small fish are ground up into pellets to feed to livestock. Vegetarian cows today are the world's largest ocean predators. The oceans are dying in our time. By 2048, all our fisheries will be dead, the lungs and the arteries of the earth. Billions of bouncy little chicks are ground up alive simply because they are male. Only 100 billion people have ever lived. 7 billion people live today. And yet we torture and kill 2 billion sentient living beings every week. 10,000 entire species are wiped out every year because of the actions of one. And we are now facing the 6th mass extinction in cosmological history. If any other organism did this, a biologist would call them a virus. It is a crime against humanity of unimaginable proportions. But happily, the world is changing. 10 years ago, Twitter was a bird sound. WWW was a stuck keyboard. Cloud was in the sky. 4G was a parking space. Google was a baby's burp. Skype was a typo. And Al-Qaeda was my plumber. Victor Hugo said, there is nothing more powerful than an idea whose time has come. Well, animal rights today is now the greatest social justice issue since the abolition of slavery. Do you know there are over 600 million vegetarians in this world, and that is bigger than the United States, England, France, Germany, Spain, Italy, Canada, Australia, New Zealand, all put together. If we were one nation, we would be bigger than the 27 nations of the European Union. Can you believe that? And despite this massive demographic footprint, we are still drowned out by the raucous hunt and shoot and killing cartels who believe that violence is the answer when it should not even be a question.